It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la luce del giorno non riesce mai a penetrare, K e Drago stanno elaborando un piano per ingannare il colonnello Nude. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Su, Drago, cerca di collaborare. Siamo qui con la truccatrice. Abbiamo trovato una truccatrice nella fabbrica di polli. Pensa che caso. Allora, stai fermo. Stai fermo. Lascia che la truccatrice faccia bene il suo lavoro, per favore. Hai ancora una guancia tutta bianca. Se non stai fermo, non finiamo mai, Drago. Ma dai, ma quanto manca? Ma aspetta un momento. Non è mica semplice trasformarti in un cannibale dell'ex Congo belga, attuale Zaire o Zaire. Ucraina o Ucraina? Suomi o Finland? Mami, mami, I want one of those. Suomi, Finland. Mami, mami, I want one of those. Turku. Mami, mami, I want one of those. Helsinki. Mami, mami, I want one of those. Cappa, ma una volta truccato, poi devo anche parlare con l'accento giusto. Ma sì, ma sì, basta rendere sonore le consonanti sorde. Cioè, parlare così. Precisamente. Dai, figurati, ecco un po' paratone. Signorina truccatrice, per cortesia, insista sulle labbra. Le labbra, lascia lì, inietti un po' di silicone lì. No, silicone no, dai. Calagna, cosa vuoi che sia? Un po' di silicone ti renderà solo più credibile, Drago, dai. Gli sciamani africani hanno sempre le labbra spesse. Ma così? Ma come? Dai, su, coraggio. Adesso facciamo la permanente e poi siamo a posto. La permanente? Come Lucio Battisti? Come Lucio Battisti e Ninetto Davoli. Sono loro i nostri role models, Drago. Vero, signorina? Cappa, lascia stare la gallina, dai. Signorina. Ma non eri tu che mi dicevi che le galline non ti piacciono? Ma questa è morto. Graziosa, Drago. Sì, sì. Signorina. Allora, dai, come devo parlare? Dimmi anche quello, perché sennò qui... Dai, prova un po'. Sono lo sciamano... Bravo, Drago, dai, ancora, fammelo ancora. Sono lo sciamano Igaitut, io cugino di sciamano originale di colonnello... Vabbè, questo non complicare la cosa, l'accento è buono, Drago, ci crederà senz'altro. Un yute ti scambierà per il cugino dello sciamano originale e avremo in pugno la situazione, ne sono convinto. Allora posso dire, io cugino di sciamano schiantato in aereo, io nuovo sciamano, sciamano Igaitut. Cioè, il tuo nome è Ingoio Tutto? Sì, Ingoio con la G. Ah, Ingoio con la G. Sì, con la G, dai, così. Direi che sei pronto, Drago. Dai, adesso spogliati. Come so fare io? No, ma come spogliati? Cioè? Sì, Drago, gli sciamani sono nudi, poi si coprono di pelli d'animale appena scoiato, ancora fumanti, però sotto sono nudi, quindi... Ma io dal collo in giù sono ancora bianco. Appunto, adesso la signorina vedrai che ti tinge il resto. Vero, signorina? No, ma cappa, dai. Signorina, io sabato sera sono libero. Lei cosa fa? Ecco appunto. Saturday night chicken. Saturday. Tu sei bianca di borotalco. Per il palco sei graziosa quanto basta. Testa per la festa. Saturday night chicken, Saturday, come away night chicken, come Polli. Triste la vita del pollo sbattimento. Sempre sbattimento. Adesso poi, che mi rifugio nella cappella di San Gallo per paura delle truppe di unghiute, la vita è ancora più triste. Qui c'è l'odore di incenso che mi fa tossire. E poi, io non credo una parola di quello che dicono i preti, inutile. Io sono un pollo laico, ateo e laico. Però la luce delle candele, in effetti, invita al raccoglimento. Quasi quasi, già che ci sono, una botta al confessionale elettrico, io la do lo stesso. Confessa i tuoi peccati a voce sufficientemente alta affinché il microfono possa registrarla con la dovuta efficacia. Poi premi il tasto Enter. Grazie. Io sono il pollo sbattimento e non ci conosciamo, anche se bazzico qua da un po' di tempo. Lo so. Padre elettrico, io non riesco ad avere fede, non credo in niente. Sono un nichilista sfascista. Un materialista senza speranza, una pecorella smarrita. No, tu sei un pollo. Adesso sono un pollo, prima no, Capisco, prima eri una pecora. Ma no, ero un negoziante di dischi. Capisco, prima eri una pecora, negoziante di dischi. Senta padre, mi sa che cominciamo male, Io volevo avere un confronto chiaro e onesto sulla mia mancanza di fede, ma lei non capisce niente, Il mio sistema operativo è stato scritto da un programmatore dislessico e compulsivamente attratto dalla lettura veloce. Egli ha scritto una riga sì e una no del codice e anche la mia resa in termini di servizio di confessione automatica risente di questa genesi. Amen. Ma continua fedele. Amen. Padre elettrico, mi dica lei cosa devo fare per meritarmi la beota serenità del fedele. Io invidio quelli che quando sono in sbattimento si chiudono in chiesa, prendono l'ostia e stanno bene. A me succede solo con la paroxetina, ma non mi sembra giusto che per qualcuno basti dire due preghiere, Fedele, l'agnosticismo e l'ateismo che tu manifesti sono i tipici prodotti del nostro tempo. Non è nemmeno colpa tua. Tu sei una vittima del sistema di vita occidentale che ha rinunciato alla sfera del sacro per dedicarsi completamente alla sfera dell'effimero. Strano, però, quando dico la parola sfera mi sento meglio. Sfera, sfera. Padre. Sfera. Padre elettrico. Sfera. Padre. Sfera. E poi, pensaci bene, fedele, servire un padrone è il destino di tutti noi, almeno che sia un padrone che conta qualcosa, un padrone che duri nel tempo e che non sia soggetto ai rovesci del destino. Pensaci bene, fedele, chi più di Dio risponde a questi requisiti? Che fine hanno fatto Marx, Lenin, Goebbels e Alberoni? Quindi rispondi alla chiamata divina e beccati la scintilla della fede. Aia! Aia! Beh, però mi sento diverso adesso. La scintilla della fede mi ha trasformato. Convertitevi! Convertitevi tutti! Si sta meglio che sotto paroxetina. La fede! La fede! Che cosa succederà adesso? Il pollo diventerà un Christian born again? E Drago riuscirà a farsi passare per lo sciamano ingoio tutto? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo religioso allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. Good night, ladies and gentlemen. Good night. Barlumen.